Radio Monte Carlo, la radio italienne de la Principauté de Monaco. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Non ci dobbiamo nemmeno chiedere se la canzone ci piaccia oppure no. Quando parte, noi la cantiamo. Anche Occidentalis Mamma ci piace, però dobbiamo essere sinceri. Poi su Namaste Ale, viene da sé. Sono in fase home in questo momento. C'è Elena Martelli, Stefano Gallarini, buonasera. C'è Luca Vano in regia, dolcissima Margia al centralino, Stefania Bertozzi in redazione. E andiamo a cominciare, posso dirlo. Allora, l'Accademia della Crusca di tanto in tanto se la prende con questa categoria di tapini e conduttori radiofonici. Sì. Perché proprio noi abbiamo l'abitudine di dire delle frasi tremendamente sbagliate. Del tipo andiamo ad ascoltare, andiamo a cominciare. Non si può, perché il verbo andare è moto a luogo. Quindi si può dire, per esempio, andiamo a mangiare, perché si presuppone che uno per mangiare si debba spostare. Tu vuoi sempre andare a mangiare, altro che ascoltare. A te non te ne frega proprio nulla. Infatti lo posso dire, l'Accademia della Crusca dice andiamo a mangiare, si può dire o a bere. Io non conosco nessuno a Radio Monte Carlo che dica andiamo ad ascoltare. Ascoltiamo però, al massimo. Vabbè, certo, comunque sia l'oggetto del contendere l'andiamo a comandare di Rovazzi, che tutti conoscono. Una signora ha voluto chiedere, ma è giusto dire andiamo a comandare? La Crusca dice no, perché non c'è moto a luogo, hai capito? Non si può dire, è come dire andiamo ad ascoltare o andiamo a cominciare. Non siamo appunto per niente d'accordo. Infatti vogliamo dire che noi non siamo d'accordo con la Crusca, perché per comandare bisogna spostarsi da qualche parte, tipo andiamo lì a comandare, lì è sottinteso. Lui poi si sposta con un trattore, quindi avete sentito che c'è il nostro autorevole parere, sì, contro l'Accademia della Crusca. Quindi, visto che noi dovremmo fare bene a evitare appunto espressioni tipo andiamo a cominciare, io direi andiamo a cominciare. Giuliano di Monte Carlo, Paolo Nutini. Slow down, lie down, remember it's just you and me. Don't sell out, bow out, remember how this used to be. I just want you closer, is that all right? Baby, let's get closer to just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Oh, I found that I'm bound to wander down a lonely road. And I realized all about your lies, but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer, is that alright? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me and sure I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. No. Lay down beside me and sure I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Radio Monte Carlo. Ehi, mi sì. Tell us all as time, true as it can be. A little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same. That's sure. certain as the sun. Su Radio Monte Carlo. Intanto grazie per i messaggi che arrivano al 342-4141-762. A proposito del andiamo a cominciare, che non si potrebbe dire, Giovanni ci fa notare che Enzo Biagi e Eugenio Scalfari hanno scritto un libro nell'81 che si intitolava Come andremo a cominciare, quindi licenza poetica, punto di domanda, o loro l'Accademia della Crusca proprio non sanno cosa sia? No, io direi che l'espressione è completamente sdoganata, quindi adesso andiamo a svelare un mistero natalizio. Jingle bells, jingle all the way. Oh, oh, oh! Anche se Natale è passato da un pezzo, a Radio Monte Carlo è in arrivo una renna. No, no, ne arrivo, ormai la renda è arrivata, il problema è stato questo. Allora, qui siamo in centro a Milano. Parcheggiare un caos, ho visto i due vigili che non avendo la targa non ha potuto multarla in nessun modo. Perché la slitta, sapete che insomma andrebbe multata se non è parcheggiato nel posto giusto. Rosaria Renna, è stato un lungo viaggio in slitta? È stato un lungo viaggio. Io vi ringrazio per l'ospitalità. Wow, eccoci. Questa è la prima volta che parlo sulla mia nuova casa radiofonica su Radio Monte Carlo. Nonostante tutti i millenni di radio che uno ha alle spalle, l'emozione è sempre come se fosse la prima volta, il primo giorno di scuola. Mamma mia, cosa dirò, come andrà, farò una brutta figura. Infatti è la prima volta, cioè nel senso che come tutte le prime volte c'è l'emozione. Raccontaci della tua prima volta, non sto scherzando. Guarda che lo puoi prendere liberamente a schiaffoni se ti dà fastidio, eh? No, grazie per mettermi subito sì, a mio agio, certo. Per proprio farmi domande semplici. No, Carina me lo racconta ogni giorno, hai capito? Senti, vero? Ma in onda o in privato? In onda. Certo. Gli ascoltatori ci stanno facendo un sacco di domande su di te. Visto che sul nostro sito radiomontecarlo.net c'è una tua brevissima presentazione, ma molto dolce, in cui tu dici che ti interessi di tante cose. Voglio sapere quali sono queste cose. Ah, beh, il cinema, la musica, i viaggi, gli animali, lo sport. Insomma, mi piace, sono curiosa. Lo sport? Anche lo sport. Che sport? Ma in generale seguo tutto, il calcio un po' per diciamo mio marito che è interista, si può dire? Non è una parolaccia? È meglio che tu non dica per quale squadra tifi. Io sono pugliese della provincia di Bari, quindi per il Galletto. Per la Bari, diciamo. Va bene, insomma, tanto non dà fastidio a nessuno, vinciamo scudetti, non andiamo in Champions League, stiamo lì però, insomma, ci facciamo valere nel nostro piccolo. Di Bari il grandissimo Cassano. Come no, per noi sì, è diciamo un'icona assoluta, ma lo sport mi piace tutto, mi piacciono le grandi imprese nello sci, nel tennis, non so, in questi giorni per esempio mi sono appassionata come tanti italiani a Sofia Goggia, bravissima nello sci, le ragazze dello sci, quindi sono curiosa di molte cose, insomma, quindi spero di parlare di tutto questo. Tanto hai nominato tennis, quindi Irina immediatamente già ti sta guardando con i suoi occhioni, perché anche è una grande appassionata di tennis. Guarda, noi dobbiamo dobbiamo convincere il boss ad andare a tifare Re Roger, se lo vedremo a Monte Carlo, ma anche i nostri fognini, eccetera. Ah, quindi siamo sulla stessa pagina. Io voglio sapere di cinema invece. Cinema mi piace moltissimo da spettatrice, insomma, adoro i grandi film e anche di quello, insomma, spero di continuare ad occuparmi, grandi interviste, grandi protagonisti qui su Radio Monte Carlo. Succederà sicuramente, ma una domanda per te tra pochissimo, perché Rosaria Renna, la nostra nuova voce qui su Radio Monte Carlo, torna con noi tra poco, ma prima dobbiamo parlare di viaggi. Sì, e prima ancora ricordiamo che se voi avete delle domande per la nostra Rosaria Renna, c'è il numero per gli SMS e WhatsApp che è sempre 342-4141-762. Amici, se amate viaggiare non potete rinunciare al Club del Plein Air. Già, vi aspettano un mondo di vantaggi, un risparmio immediato e tutta la libertà che cercate. Il Club del Plein Air unisce al vostro desiderio di viaggiare il doppio vantaggio di sicurezza e convenienza grazie alla convenzione con un partner affidabile come Allianz. Quindi sconti su campeggi, aree di sosta, riturismi, traghetti e tanto altro. Insomma, una tessera che vale molto più di mille parole. Entrate subito nel club. Per farlo basta andare sul sito clubdelplenair.it. Radio Monte Carlo. Grande musica. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va. All'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità. possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle. La stagione dell'amore qui su Radio Monte Carlo. Intanto siamo qui con la nostra nuova collega Rosaria Renna, è un vero piacere. Ci sono ascoltatori che fanno domande di qualsiasi tipo al 342 414 1762. No, ma io voglio ringraziare soprattutto quello che ha scritto: ah, ma allora non è andata in pensione. No, no, grazie. Grazie per il benvenuto. Abbiamo svelato un mistero, infatti. No, niente pensione, chissà se mai ci andremo. No, Rosaria, io tenderei ad escluderlo. Lavoreremo fino a 98 anni se ce lo consentiranno. Allora, torniamo al cinema. Michael Fassbender, sai che infatti ha fatto una faccia, avresti dovuto vederla. Mi sto sentendo male solo a sentire il nome di Michael Fassbender. Siccome uscirà il suo nuovo film proprio l'8 marzo, La luce sugli oceani, è un film drammatico. Drammatico, intenso, e tra l'altro diciamo che è molto curioso questo film, sono curiosa anche di vederlo, perché si sono innamorati lui e la protagonista femminile, Alicia Vikander, la ragazza svedese che ha vinto l'Oscar l'anno scorso per The Danish Girl. Si sono innamorati su questo set, loro fanno marito e moglie, e praticamente sono entrati così tanto nella parte che si sono innamorati, quindi andiamo a vedere come è nato il loro amore. Ma succede sempre così, infatti. Sta di fatto che per pubblicizzare il film su Facebook è apparsa la pubblicità con un Fassbender mezzo nudo con scritto l'8 marzo vieni molto a festeggiare con me. Si peccato sono... quella scritta proprio che copre, io non lo so, ma mettetela da un'altra parte. Si sono ribellati, l'hanno dovuta togliere, ecco, l'hanno trovata eccessiva. Ma perché, voglio dire, ma no, ci sta, non so, il senso dell'umorismo, ecco, proprio. Ecco, è lì che dovevamo arrivare. È defunto, davvero. Cioè, a volte la vita va presa anche con un po' di leggerezza, insomma, non si può fare di un caso ogni cosa. Quindi tu avresti festeggiato l'8 marzo con Fassbender. Sì, il problema è che nell'8 marzo c'è poco da festeggiare, più una celebrazione, e adesso invece sembra serve un po' a fare il punto della situazione, diciamo, della questione femminile, che mi sembra abbastanza irrisolta in maniera particolare nel nostro paese. Infatti ci sarà uno sciopero per proprio puntualizzare su questo e parlare di questi temi. E per darmi il benvenuto a Milano, così mercoledì mi complicate la vita, però è giusto ogni tanto fermarsi e riflettere su queste cose. Però nulla toglie poter ammirare Michael Fassbender, insomma, in tutta la sua bellezza. Bellissimo film, fra l'altro, veramente drammatico. E poi appunto l'8 marzo ci sarà l'anteprima. Rosaria, qua i messaggi arrivano da tutta Italia. Umberto da Napoli, Fabio da Milano, la nuova collega ha una voce stupenda, complimenti, è un buon inizio. No, sono contenta che magari qualcuno mi scopra per la prima volta, sono felice, spero naturalmente veramente che ci siano tutti quelli che mi hanno coccolata in questi anni, che mi conoscono, insomma già mi apprezzano, però sono molto felice di trovare nuove persone per cui la mia voce è nuova, altro che pensione, hai capito? Le coccole fanno sempre bene, poi nuove fanno ancora meglio. Senti questo, Matteo da Lucca: benvenuta Rosaria, una lady di classe per la radio chic numero uno. Lady di classe ti piace? Sì, guarda, ho anche la posa da lady di classe, immaginatemi, veramente un po' snob e con il naso all'insù. Qua qualcuno dice: meno male che sei interista. Non è esattamente interista, no, Rosaria. No, è mio marito, però effettivamente uno, come per dire, la legge dei vasi comunicanti. Sì, un po' interista lo sono, perché sai, per essere contenti a casa, sì, io sono felice se vince l'Inter, così è felice lui, è felice il mio gatto, siamo tutti tranquilli a casa. L'abbigliamento che hai scelto oggi, per esempio, ricorda anche, sì, però ricorda anche quella squadra, sicuramente. Nero azzurro. Ascolteremo ovviamente Rosaria Renna, ancora non vi sveliamo quando, sarà una sorpresa dei prossimi giorni, quindi dovete seguirci sempre comunque. Sì, anche perché nei prossimi giorni avrò il piacere di conoscere altri colleghi. Io vi ringrazio per questo debutto, insomma siete stati molto carini. Irina in maniera particolare, sì, mi ha ceduto la sua cuffia, grazie veramente. Prego, sono commossa dalla vostra amicizia, e però andrò a conoscere anche tutti gli altri colleghi che mi ospiteranno proprio per introdurmi, per presentarmi a questa grande famiglia che sono gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. E loro ti aspetteranno a braccia aperte, so che già lo stanno facendo. Grazie, vi voglio bene. Ce ricordiamo ancora il debutto lunedì 13 marzo qui su Radio Monte Carlo di Rosaria Renna, che gioia. Intanto si torna alla nostra musica, qui c'è James Arthur e Say You Won't Let Go. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head, and I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth this weight of gold. We've come so far, my dear. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me too. Monte Carlo. Monte Carlo. RMC.

musica di gran classe. Beautiful Girl qui su Radio Monte Carlo alle 19 quasi 9 minuti con Irina Martelli, con Stefano Gallarini e con i vicini di casa. No, perché noi già tempo fa avevamo parlato di questa bella iniziativa con un ospite che era venuto a trovarci. È vero, io non mi ricordo più da quanti anni conosco Federico Bastiani, perché quando l'ho intervistato la prima volta qui a Radio Monte Carlo, la sua idea, che era partita dai social network e raccoglieva gli abitanti di Via Fondazza a Bologna, non era ancora tanto conosciuta, era più o meno il 2013. L'idea era quella di avvicinare i vicini di casa, sì. Appunto, per cui non ci si parla più nelle città, soprattutto finito anche di non vederli quando passano dalle scale, tu non so, guardi il telefonino, guardi in basso, hai capito? Invece i vicini di casa sono potenzialmente i nostri migliori amici. Di sicuro, comunque si può creare una sorta di comunità anche senza magari trovare grandissime amicizie. Pensate agli anziani che nelle vie si sono dati disponibili per curare i bambini, degli adulti che non avevano modo di trovare una babysitter. Comunque, per intenderci, questa social street è partita da Via Fondazza a Bologna ed è arrivata adesso in tutto il mondo. Credo che non ci sia paese al mondo dove non ci sia un gruppo di social street. E infatti così grandi città italiane finalmente hanno abbracciato, diciamo così, quest'idea che sta per essere lanciata in modo efficace dal comune stesso, per cui insomma esce un pochino, diciamo così, allo scoperto per chi non dovesse conoscere. Sono proprio i comuni che si animano per cercare di far capire la fondatezza e l'importanza dei vicini di casa. Sì, perché è bello incontrarsi su Facebook, ma è ancora più bello uscire da Facebook e incontrarsi nella realtà. Ed è ancora più bello mandare i messaggi. Il numero, per esempio, per gli SMS e WhatsApp è sempre 342-4141-762. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around ya. See what you think, well you don't think it now. You lost my love, but someone found it. coming out. Game, set, and match. Don't seem to be no catch. I don't think she'll drive me to the wall. Believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood. Radio Monte Carlo, musica di gran classe. I should have run before the tears, then stand alone, dead in front of you, eyes without a view. I should have known and faced my fears. This bitter juice could ever be. I hope you get to meet your hero. fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto il tempo non cancella, nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia, lascia un solco perfetto. All'inizio della canzone dice amore, amore, portami via, e poi invece gli dice vattene via. È perché così noi cambiamo spesso umore. No, e ci ha fatto così curiosire molto una ricerca di Guardi qualche giorno fa, perché sono stati analizzati 80 milioni di tweet in Italia, geolocalizzandoli, quindi si partiva da dove provenivano questi tweet, per capire la rabbia online, perché la rabbia nei tweet è esplosa, pensate, l'anno scorso. Fino a ottobre l'amore, i tweet amorevoli superavano quelli dell'odio, quelli odiosi, odianti anzi direi. E invece da novembre in poi devo dire che è scoppiata la rabbia, cioè l'amore anche si è alzato, ma non è riuscito in nessun modo a battere la rabbia, perché la quantità di tweet arrabbiati era elevatissima. Non riusciamo a spiegarcelo, perché evidentemente diciamo l'amore aumenta nel grafico quando ci si avvicina a Natale, perché ci sono i tweet sugli auguri eccetera, ma non riusciamo a capire le ragioni dell'odio in quel periodo dell'anno. Allora si potrebbe un po' capire dagli argomenti, perché la cosa più odiata in assoluto e quindi twittata in questo senso, la classe politica col 40%, poi c'è la misoginia, allegria, ok, quasi il 30%, la xenofobia e alla fine l'omofobia. Questi sono gli argomenti che fanno arrabbiare di più le persone. E c'è anche una mappa dell'odio a seconda degli argomenti, molto triste, ma brevemente, praticamente la rabbia in genere complessiva arriva soprattutto da Roma via Twitter. La rabbia contro le donne da Taranto, la rabbia omofoba da Roma ancora, la rabbia contro la classe politica vede al primo posto Milano, la rabbia xenofoba ancora Roma. Insomma, sta di fatto che si è arrabbiati, ma ci sarà una città, un luogo dove la gente mente dice: ma io sto bene, perché mi devo arrabbiare? Voglio peace and love, pace, amore, c'è, l'abbiamo trovata. Eh sì, è la città di Ragusa, quindi un abbraccio ma veramente sentito lo mandiamo ai nostri ascoltatori di Ragusa. Siamo davvero commossi per il fatto che è la città in Italia in cui meno si esprime odio in generale. Sì, e non capiamo come mai, cioè, o perché semplicemente ve ne fregate di ogni cosa, oppure perché dite: vabbè, però bisogna anche dare amore per ricevere. Ma i siciliani sono meravigliosi, sì. Evidentemente i ragusani in particolare. Vabbè, 342-4141-762 i vostri messaggi d'amore a questo punto. Oppure di odio. Radio Monte Carlo. Great music. The night. Could Fly, Roxette su Radio Monte Carlo. Mi fa sorridere che Monica Bellucci, da quando ha compiuto 50 anni, viene sempre intervistata su hai paura delle rughe, che cosa ne pensi della bellezza a una certa età. Infatti invece la cosa più bella l'ha proprio dichiarata ai giornali, alla stampa, riporta un'intervista. Fra l'altro lei ha appena preso il premio alla carriera al Festival della Comédie di Monte Carlo. Ah, che gioia. Quindi complimenti. E lei ha detto una cosa bellissima, dice: con l'età i difetti fisici si vedono di più e il numero degli spasimanti cresce, perché alla fine una donna, quando la vedi con i suoi difetti, bella come lei, poi non ti spaventa più, perché il problema è quello, non ti sembra più inarrivabile quando qualcuno non ha difetti, ti spaventa, non c'è niente da fare. Lei ha ragione, ha detto delle cose che mi devo dire mi piacciono molto, e lei mi piace sempre di più. E lei ad esempio ha detto che la bellezza è un regalo che bisogna saper usare, ma ha anche detto questo, che femministe e femminili è questa la nostra vittoria, e ha ragione, perché per essere femministe non bisogna scordarsi che comunque siete le donne femminili anche. Avrete seguito anche in parte le polemiche su Emma Watson, che in un servizio su Vanity Fair fa vedere un pochino di seno. Moltissime hanno detto: ma come, sei femminista, fai vedere il seno? E perché non si può, cioè non lei capisco, lei ha detto: cosa c'entra il femminismo con le mie tette? Infatti non c'entra assolutamente niente. Benvengono le tette di Justin Naomi. Bieber. Can we keep each other company, maybe we can be each other's company, company, let's end each other's lonely nights, be each other's paradise, need a picture for my frame, someone to share my brain, tell me what you wanna drink, I'll tell you what I got in mind. Don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been under no pressure, ain't that serious? Can we keep each other company? I'm all about the elevation. We can keep it going up. Oh, don't miss out on us. Just wanna have a conversation. Forget about the obligations. Maybe we can stay in touch. Oh, that ain't doing too much. You ain't gotta be my lover for me to call you baby. Never been up on no pressure. Ain't that serious, no. Each other company. Just Justin Bieber qui su Radio Monte Carlo canta che ci si potrebbe tenere compagnia, ma volete voi tenerci compagnia e papparvi anche una maglietta? Già, ci sarà qualcuno che canterà sotto la doccia qualcosa, voi dovrete cercare di riconoscere la canzone cantata appunto sotto la doccia. Accettiamo sia il titolo della canzone che l'artista, siamo magnanimi. E il numero verde per prenotarsi è sempre il nostro, è 800 04 64 64. La Fergie, Will I Am. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment is a day. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. Wait, baby. So please tell me quando, quando. Say it's me that you adore. I adore you. And then darling, tell me when. Ooh, yeah. Hey girl, you my mom Bella. You make my vida feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My Bella, my Bella. I die if I can't come near. I love you forever. Every moment, every day is like a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ooh, I can't wait a moment. Oh, I can't wait either. Tell me quando. Sing for your acapella. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. Love, it was almost love. It was almost love. It was almost love. Ci ha fatto sognare quella bellissima Human. Ora questa è la nuova di Rag & Bone Man, si intitola Skin, qui su Radio Monte Carlo. E adesso? Adesso c'è qualcuno che ci farà veramente sognare. Sì. Canzoni sotto la doccia. Marco da Roma, ciao Marco. Ciao Marco. Ciao cari. Benvenuto. Tutto bene? Tutto bene, tu? Tutto bene, grazie. Bene, perfetto. Facci sognare, Marco. Adesso noi ti faremo ascoltare qualcuno che canta sotto la doccia. Ti dico che canta peggio di te, sicuramente. Ecco, quello sicuramente. Ecco. Se si è intonato, almeno riesco a capire. E canta pure peggio di noi, devo dire. E dovrai dirci o il titolo della canzone oppure il nome della o del cantante, ok? Però okay, sarà abbastanza facile per un particolare. Non ti dico altro, ascolta con attenzione. Vai. Soli, na na na ne, na na contenta gode, ne così, na na na na na na na na na na na na na. Eccola, cioè, adesso, mi ha aiutato. Diciamo che noi cantata così non è che abbiamo goduto molto, però tu che risposta dai? Beh, sicuramente Luciano Ligabue. Certo, con certe notti. Certe notti, certamente, certamente. Guarda, mi fate molto piacerissimo perché mi ha chiesto la maglietta della radio mio figlio, quindi gli farò un regalone per voi. Certo, infatti te la terrai tu e sarà perfetto per farlo felice. Marco, come si chiama tuo figlio? Luis, L-U-I-S, Luis. Ah, allora mandiamo un bacione sia a te che a Luis. Grazie infinite, grazie a voi per la bellissima musica che ci date. Grazie a te, ciao caro. RMC Soundtrack. La musica dei grandi film. Dal film La storia infinita, Lee Malcolm, Neverending Story. Black con la storia infinita, Never Ending Story, Kaja Gugu Limal. No, non capivo, sì, certo, sono una parolaccia per un attimo. Ricordo il romanzo, era scritto in rosso e in verde, no? Perché tu hai letto il romanzo? Certo, vorrei anche vedere. Era bellissimo, perché in verde c'era la realtà, invece in rosso c'era la fantasia, no? Bellissimo. Dividere le due parti il libro. Allora, sì, ma non sono letture per te, tu leggi cose più importanti. No, sì. No, perché mi è sfuggito, ma figurati, io leggo i romanzetti d'amore, pensa quante cose importanti leggo. Allora, si parlava di gioia e serenità, c'è qualcuno, sì, che ci scrive, voglio dirvi che anche a Verona si sta molto bene, c'è tanto amore, pace, gioia e serenità, basta sforzarsi un pochino. Ma io sono d'accordo con chi ha scritto questo messaggio, perché a Verona si beve lo spritz in pratica e quindi dopo 10 spritz sei sicuramente in pace con il mondo, anche con uno. A proposito invece di vicinato, io ho sempre avuto dei vicini formidabili, in particolare la mia prima Laura, la psichiatra, e oggi c'è Barbara, folle creativa, quando mi invita mi perdo nei suoi cassetti pieni di parrucche. Ecco, il problema è che hai firmato Salva questo messaggio, quindi non capiamo se è Salvatore che prova le parrucche della sua vicina di casa, perché la cosa è curiosa, oppure se si chiama Salva, che è un nome, cioè Salvo al femminile diventa Salva. Ma magari capito? Barbara, sì, quella che ha le parrucche nei cassetti, sì, potrebbe avere delle parrucche maschili, se è folle. Sì, è più difficile, devo dire che è un po' più difficile, però potrebbe anche essere. Esistono anche le parrucche maschili, giusto? Immagina Tiziano Ferro con la parrucca di Carmen Consoli e viceversa, cosa verrebbe fuori come aspetto estetico? Beato te che non hai bisogno, con quei bei capelli lunghi, ma sono veramente tuoi. A tirarli e vedi se vengono via. Come fanno con Trump? Infatti uso la stessa casa cosmetica. Se questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, la porta e consegnai la chiave a te. Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza. Il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bellati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il contatto e il tuo conforto. E questa città confonde, allora siete in due. Per non farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio e il tuo conforto. Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio, quel conforto che ho a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio. Monte Carlo. Ehi, mi sì. She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing I've ever seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting it in no time. I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, ma, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me on. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls. No way, hey. Now they gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to come me. On. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, what you mean to me. Right. Questa sera senza i consigli della guida scandinava per vivere 10 anni di più. Allora, velocemente vediamo se seguiamo quelle regole. Vai. Fare attività fisica costante, okay. Ridurre lo stress, sì. Dormire almeno 7 ore per sì. Notte, prendere un po' di sole perché produce vitamina D, alimentarsi bene con poca carne, molte verdure, bere acqua, controllare il peso, avere una bocca sana, l'ottimismo, lavorare soprattutto con una collega simpatica e divertente. Questa tutti notizia, i giorni. Ovviamente, questa regola non c'era ed è l'unica che non dovete fare se volete campare 10 anni di più, ovviamente, ma 100 anni di più. Grazie di cuore da parte di tutti noi, anche da parte di Luca Onne, regia, Stefi Bertozzi in redazione e la Dolce Margi. Ci aspettiamo domani alle 18 e guai se non ci siete. Ciao. Attenzione perché sta per arrivare il nostro Maurizio Di Maggio in diretta dal Principato di Monaco. Bacio.